Questa è la decima edizione di FILI, il Festival dell'Informazione Libera e dell'Impegno organizzato da Libera Bologna. Siamo partiti 10 anni fa per raccontare mafia e criminalità in un territorio che ancora si sente molto lontano da queste tematiche. 10 anni dopo molte cose sono cambiate, ma c'è ancora una scarsa consapevolezza rispetto a quella che è la presenza mafiosa e criminale sul territorio. Si fatica a capire quali sono gli impatti, quali sono le vittime, perché è un qualcosa che riguarda tutte e tutti su tutti i livelli. E per cui anche quest'anno, tra i più di 10 eventi del festival, cercheremo di capire insieme sia come raccontare questi fenomeni sia come creare strumenti di contrasto, appunto su diversi livelli, non solo da un punto di vista giudiziario delle forze di polizia, ma anche soprattutto da un punto di vista della prevenzione, dal punto di vista culturale e sociale. Le scorse edizioni si concentravano sul tema della ristorazione, quest'anno invece su quale argomento puntate maggiormente? Negli scorsi due anni abbiamo presentato appunto due inchieste, la febbre del cibo, per raccontare un fenomeno appunto che riguarda tutta la città, in cui tramite segnalazioni di tante cittadine e cittadini ci arrivavano voci su quello che si muoveva dietro, non solo mafia e criminalità ma anche strane espansioni che sicuramente, se non erano mafioso criminali, erano in un qualche modo predatorie di quello che è il centro di Bologna. Soprattutto quest'anno presenteremo un'altra inchiesta che riguarda anche la ristorazione. Parleremo di una famiglia calabrese che si è spostata in Emilia Romagna ormai diversi anni fa, e racconteremo gli affari di questi quattro fratelli in città, tra settore della ristorazione, settore immobiliare e settore degli alberghi, quindi comunque ricettivo e comunque legato al turismo. Non sarà un'analisi sistemica, ma sarà un racconto appunto di come si muovono determinate famiglie, e in questo caso una famiglia che non è stata condannata mai per associazione mafiosa, ma che ha legami con uno dei principali clan di 'Ndrangheta. Quindi cercare di capire tramite quale lenti possiamo leggere determinati fenomeni, non solo quelli giudiziari ma anche appunto quelli economici, sociali e culturali, che ci possono permettere di avere una certa consapevolezza e di prendere anche posizione contro determinati fenomeni. E come si svolgerà il festival quest'anno? Il programma come è strutturato? Quest'anno saremo dal 4 al 6 dicembre a Baumhaus, quindi in un unico posto in via Jacopo Barozzi dietro la stazione, e inizieremo il giovedì 4 con alcune iniziative dedicate a studenti e studentesse. Inizieremo poi con gli incontri aperti al pubblico dalle 18. Parleremo di un tema che è abbastanza centrale per fortuna in questi mesi, e cercheremo di approfondire come parlare di droghe da tutti i punti di vista, quindi non solo quello della repressione e del contrasto ma anche soprattutto quello del narcotraffico, dello spaccio e dall'altra parte del consumo e della riduzione del danno, per capire insieme appunto come affrontare un tema che negli ultimi mesi è parecchio raccontato, non sempre in un modo completo. Passeremo poi a raccontare della corruzione, un fenomeno che ancora ci sembra lontano. Il 9 dicembre tra l'altro sarà la giornata internazionale contro la corruzione, ci tenevamo a parlare di un fenomeno che spesso sembra invisibile e che più di altri non viene riconosciuto come centrale negli equilibri democratici. Lo faremo con alcuni ospiti di eccezione come Gianni Barbacetto, Lucio Picci, Alice Mattoni e Daniela Marcone, per affrontare sia quali sono le vittime del fenomeno sia il fenomeno in sé da Tangentopoli ad oggi, per capire appunto come raccontarlo. Sono tutti eventi che sono anche riconosciuti come formazioni dell'ordine dei giornalisti, come quelli dei giorni successivi, in cui parleremo di come raccontare le mafie, di quali sono i segnali per riconoscere le mafie, presenteremo l'inchiesta, e poi sabato racconteremo di un'altra serie di eventi, parleremo della crisi della verità e di tutti quegli attacchi alle libertà di stampa che sempre più purtroppo sono centrali nel nostro paese. Parleremo di quanto è difficile fare giornalismo d'inchiesta, parleremo di come raccontare gli ecoreati e parleremo infine di repressione del dissenso, per poi chiudere con un DJ set finale sabato con una festa per questi 10 anni.